Buona domenica e benvenuti a questa nuova lezione di jazz. Oggi parliamo del motivo per cui siamo qui, cioè del fatto che anche in Europa si ascolta jazz, conosciamo il jazz, lo apprezziamo, ci piace e soprattutto è nata e cresciuta una forma anche autoctona di jazz. Jazz che è una musica nata negli Stati Uniti, alla fine, tra la fine dell'Ottocento e diciamo i primi anni del Novecento, ma che rapidamente è diventata una musica di respiro globale. E di questo ci occuperemo oggi. Dico subito, non ci occuperemo tanto della nascita del jazz in Europa, ma di quali sono le storie con la S minuscola e la S maiuscola, molto affascinanti, che si come dire, intrecciano anche alla storia dell'arte, del cinema, della fotografia, della danza. Come tutte queste arti hanno trasformato il gusto e la sensibilità in Europa, in particolare fra la prima e la seconda guerra mondiale. Uso il cellulare come telecomando, quindi ecco, sono. Di cosa parliamo? Stavo dicendo che il jazz è nato all'inizio del Novecento a New Orleans. Ma in realtà forme di musica nera, come per esempio il ragtime o musica da teatro, il minstrel, il varietà, diciamo così, cioè con cantanti, ballerini, con musiche ispirate alla marcia o al ragtime, erano diffuse in tutti gli Stati Uniti. E a partire dagli anni 10 questa sensibilità si è diffusa praticamente in tutto il mondo. Qui ci sono solo alcune delle principali città nelle quali questa nuova musica nera si è diffusa. Per esigenze di spazio non è stato possibile mettere Bruxelles, per esempio, che vedremo una città molto importante, incredibile, ma Bruxelles è stata una delle capitali del jazz, negli anni 10. Non c'è nella mappa Milano, forse parlando dei tardi anni 30 avremmo potuto mettere il Cairo. Ma San Pietroburgo anche manca per esigenze di spazio, ma ecco i centri principali, compresi quelli in India e in Cina e in Sudafrica, sono più o meno questi. Il jazz si è diffuso attraverso i grandi canali del capitalismo internazionale, e cioè i viaggi intercontinentali con le navi e poi più tardi naturalmente con i mezzi aerei, il treno, e naturalmente il telefono, il disco, la stampa che viene diffusa di libri che vengono appunto distribuiti a livello internazionale. Quello che tutti questi centri hanno in comune, che vedete su quella mappa, sono sostanzialmente dei crocevia del grande capitalismo internazionale. Spesso sono dei porti, pensate a Shanghai, pensate a New York, pensate alla stessa Chicago, che è una città che è il crocevia di tanti traffici negli Stati Uniti. Spesso sono dei porti, spesso sono dei luoghi dove intrattenimento, commercio e altre attività si intrecciano in maniera frenetica. Ora, c'è in realtà in Europa un luogo dove la musica nera americana è arrivata prima di qualsiasi altro posto, ed è Londra. E questo per motivi abbastanza comprensibili, perché come potete immaginare c'è un legame diretto di tipo culturale e linguistico tra Londra e gli Stati Uniti, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, e Londra fu in particolare il punto di ritrovo, di arrivo anche di molti cantori di minstrel, di questo teatro americano dell'Ottocento in cui attori bianchi si pittavano la faccia di nero e cantavano e danzavano melodie degli schiavi. Uno degli inventori di questo teatro fu Thomas Rice, che aveva inventato un personaggio che si chiama Jim Crow, Jim il Corvo, un personaggio con una forte connotazione razzista, che però consentiva ai bianchi di fare un'operazione, se ci pensate, un po' curiosa, cioè in un'epoca in cui, per esempio, 836, che è la prima volta in cui Thomas Rice va a Londra, in un'epoca in cui i bianchi schiavizzano i neri, sono però affascinati dalla loro musica, allora che cosa faccio? Piuttosto che ammettere che la loro musica mi piace, per suonarla e cantarla mi maschero dal mio schiavo, come un mio schiavo. È un'operazione, se ci pensate, un po' perversa da un punto di vista psicanalitico. Assumo la maschera di colui che sottometto perché ne sono profondamente attratto. Il minstrel funzionava in questo modo e per tutta la seconda metà dell'Ottocento compagnie di minstrel che portavano musica sincopata, ragtime più tardi e danze varie arrivarono a Londra e girarono in Inghilterra, almeno nelle principali città e qualche volta anche in Irlanda, con una certa frequenza. Tuttavia è a partire dai primi anni del Novecento che musicisti neri, professionisti che suonano ragtime, una specie anche di proto-jazz, arrivano appunto a Londra. Il più importante di questi si chiama Joe Jordan, che come vedete ha avuto una lunga vita, è stato un importantissimo compositore, era un pianista e compositore, non era un jazzista, era un compositore come dire, di tipo classico che scriveva The Ragtime, che fu in Europa un sacco di volte. Guardate, nel 1905 era già a Londra e a Parigi, nel 10 in Inghilterra, Belgio, Germania, nel 14 torna in Inghilterra, nel 15 di nuovo a Londra. Quest'uomo portò spettacoli, compagnie di varietà e quindi gruppi musicali che suonavano anche la sua musica. E per avere un'idea di com'era la sua musica, ascoltiamo uno dei suoi ragtime più famosi, che si chiama That Tis in Rag, composto nel 1909. Quindi quello che stiamo per ascoltare, dovete immaginare, che so, in Belgio, in Germania, in Inghilterra nel 1910 era già possibile ascoltarlo. Sentirete una musica che nella prima parte ha una forte componente di marcia, come tipico dello stile ragtime di quegli anni, ma nella seconda parte diventa un ragtime danzante. Dovete immaginare che questa musica era ballata, ovviamente. Un po' il volume, appena un po', grazie. Questo naturalmente non è un disco d'epoca, è una registrazione recente della Paragon Orchestra di Rick Benjamin, uno specialista nel recupero di questo repertorio. Questa musica era popolarissima in Europa. Il motivo per cui Joe Jordan è venuto tante volte, faceva su e giù, anche a guerra iniziata, come vedete, e sapete che a un certo punto comincia a diventare pericoloso viaggiare sui piroscafi perché ci fu la cosiddetta guerra dei sottomarini con i tedeschi che tentavano di affondare le navi anche civili, andò su e giù dall'Europa agli Stati Uniti perché c'erano degli impresari illuminati in Europa che andavano negli Stati Uniti, ascoltavano questa musica nuova e pensavano questa piacerà agli europei e ci avevano ragione perché la gente letteralmente impazziva per questo ritmo danzante nuovo. Spiegheremo meglio che cosa vuol dire impazziva, perché è proprio, in un certo senso, c'era un effetto liberatorio. Però questi ritmi sincopati erano qualcosa di nuovo per il mondo europeo, anche se in effetti c'era appunto l'esperienza dell'ascolto dei minstrel. Ma evidentemente nel corso degli anni 10 più si va avanti e più il pubblico si abitua e ha fame, ha voglia di questa nuova eccitazione. Londra fu anche il luogo dove arrivarono varie altre compagnie. Qui ne ho elencate un po' alla rinfusa, sono solo alcune delle tantissime. La cantante Belle Davis con questi due ragazzini che l'accompagnano, sul ballerino Louis Douglas, un personaggio fondamentale. Vi dico solo che Louis Douglas ha danzato, lo vedremo dopo, anche a Roma, qui, non qui all'auditorium, non qui dove sto io, insomma. E poi Peter Hampton e Laura Bowman, che furono due intrattenitori appunto di minstrel, e io vorrei farvi sentire un pezzo di Peter Hampton perché vi dà un'idea di com'era questa musica quando era cantata. Quindi una canzone di tipo ragtime, sincopata, molto divertente, che si intitola I'm Gonna to Live Anyway Till I Die, è stata registrata nel 1904 a Londra, perché la cosa interessante è che questi artisti non solo venivano in Europa, ma l'interesse nei loro confronti si manifestava anche nella nascente industria discografica. Era qualcosa che stava nascendo in quel momento, per cui qualche casa discografica inglese pensò di documentare e di vendere questa nuova musica. La registrazione che state per ascoltare è del 1904, quindi c'ha più di 100 anni. Fate un po', ovviamente, di lavorare un po' di fantasia per integrare il suono che sentirete, anche se devo dire che il restauro è fatto piuttosto bene, una registrazione piuttosto rara, ma ci dà l'idea di cosa ascoltava la gente a Londra quando sentiva una canzone nera. Nickel Records. Brothers and sisters, we have congregated here this evening in behalf of the Young Men's Christian Association, having been appointed by the Committee of One, and that now myself, we will sing that old camp meeting song. There's a coon down Tennessee, who's just as sweet as he can be. He never pleased and attended church, nor going to Sunday school. All the good folks for him praise, and all the good things about him said. But he believed in superstition as a rule. He believed in social strife, and having a good time all his life. For to be so wicked, he seemed not afraid. When they asked him to reform, he wouldn't live very long. He delivered that congregation when he said, well, I'm gonna live anyhow till I die. I know my kind of a living ain't a very high. With sticks and stones you can break on my bones. Talk all about me or when I'm gone. I'm gonna live anyhow until I die. He decided to reform. Started off to church one morn. He was tossed up in his best and out on pleasure bent. Now he says he'll be a real good coon. Be a black bill deacon soon. But to his surprise, there was an accident. While the choir refused to sing, case the church bells wouldn't ring. That coon became suspicious and afraid. He says, good folks, I can't see if that religion excuse me. He never left that congregation when he said, well, I'm gonna live anyhow till I die. I know my kind of a living ain't a very high. Well, in the good book it is often said, when you die, you're a long time dead. I'm not gonna live anyhow until I die. Well, I'm gonna live anyhow until I die. I know my kind of a living ain't a very high. Well, in the good book it is often said, when you die, you're a long time dead. I'm not gonna live anyhow until I die. Una osservazione cronologica, 1904, il jazz non era ancora nato. Cioè a New Orleans, e nessuno sapeva in quel momento cosa stesse accadendo a New Orleans, perché i musicisti non uscivano da New Orleans, né ovviamente venivano registrati i dischi. A New Orleans noi sappiamo che quella cosa che poi verrà chiamata jazz non ha ancora preso forma. E il ragtime o musica come questa che vanno in giro per gli Stati Uniti è dunque per l'Europa. Ed è questo tipo di stile che si ascolta, come quello di Joe Jordan o questo tipo di canzoni, sincopate, ritmiche, trascinanti, che si ascoltano in giro per l'Europa. Ora, come vi dicevo prima, sembra incredibile, ma oltre a Londra, nel primo decennio del Novecento, l'altra grande capitale della musica nera in Belgio è stato appunto il Belgio. Belgio dove era nato Adolphe Sax, l'inventore del sassofono. Come vedete, in Belgio a volte succedono delle cose interessanti, non c'è solo la burocrazia diciamo, dell'Unione Europea. In Belgio, se io ho buttato lì, ispirandomi a uno scritto di Adriano Mazzoletti, che ha fatto delle ricerche magnifiche in questo caso, guardate solamente qui su questa lista alcune delle cose che succedono. Nel 1881 arrivano i minstrels all'Esposizione Universale, non andatevi a cercare adesso all'Expo a Milano perché è passato il tempo dei minstrels. John Philip Sousa con la sua grande banda, che suonava anche ragtime, arriva a Bruxelles nel 1903. C'è un'incredibile quantità di ragtime che vengono pubblicati in Belgio tra il 5 e il 15. Joe Jordan, abbiamo visto, ci suona nel 1910. Ci arriva nel 20 Louis Mitchell, di cui parleremo fra poco, un altro personaggio fondamentale nella storia del jazz in Europa. E nel 1922 Robert Goffin, uno dei primi critici di jazz, pubblica a Bruxelles uno dei primi libri sul jazz. Forse il primo libro sul jazz in assoluto fu pubblicato in Germania, non il primo libro sul jazz in Europa, il primo libro sul jazz in assoluto fu pubblicato in Germania, Jazz und Chimie, 1921. Goffin, che fu poi un critico importante, pubblica questo Jazz Band nel 1922. Ora, questa nuova musica, oltre a portarsi delle sincopi e un ritmo particolare, portò anche degli strumenti nuovi, e lo strumento più clamorosamente nuovo fu la batteria. Vi ricordo che la batteria è nata alla fine dell'Ottocento a New Orleans, probabilmente per opera di un batterista, di un percussionista che si chiamava D.D. Chandler, e nel corso dei primi anni del Novecento molti altri musicisti hanno poi sviluppato quel concetto mettendo insieme che cosa? La gran cassa, cioè gli strumenti della banda, la gran cassa, il rullante, i piatti che nella banda sono suonati almeno da due o tre persone e che invece stando stanziali, fermi, e usando la gran cassa con un pedale vengono suonati tutti questi strumenti da una persona sola. All'epoca la batteria veniva chiamata trap drums, cioè una specie di trappola di tamburi. E questa parola trap ci lascia anche intuire come per il pubblico dell'epoca la batteria fosse anzitutto una novità e in secondo luogo una novità sconvolgente, una novità eccitante, perché faceva una cosa nuova, faceva rumore. Cioè non è che faceva una melodia, non è il sassofono, uno strumento nuovo, che ci fai col sassofono, una melodia? No, questo fa casino, fa rumore. Certo, porta dei ritmi perché sono a volte gli stessi ritmi di marcia che sentiamo nella banda, quindi quello che fa non è del tutto nuovo. In realtà i batteristi cominciarono ad arricchire gli strumenti di base con altri strumenti più piatti, i woodblocks, cioè quei piccoli pezzi di legno cavi, concavi che risuonano, fanno quell'effetto tipico cloppiti, cloppiti, cloppiti, no? Campanellini, percussioni di ogni tipo, colori di ogni tipo, perché la batteria divenne il centro, il fulcro del gruppo. Che si trattasse di una banda ragtime o di un gruppo di proto-jazz, la batteria era l'elemento più spettacolare. Tant'è vero che dovete sapere che il mito del batterista come Superman e come superstar del gruppo, tipica per esempio dei gruppi rock, no? Col batterista che sta più in alto, che domina il gruppo, eccetera, è nato in realtà negli anni 10, perché già negli anni 10 c'erano dei batteristi superstar, come Buddy Gilmore, per esempio, che era un personaggio, uno dei padri della batteria moderna. Io vorrei darvi un'idea di come suonasse la batteria, perché poi la batteria si porta dietro una serie di concetti che si rifletteranno, lo vedremo anche sull'arte, e non solo sulla musica, però prima di capire ascoltiamo un disco, anche questo piuttosto raro, del 1916. Si chiamano i Versatile Four, fanno un pezzo all'epoca abbastanza noto, Down Home Reg, che ci ascoltiamo per intero, sono quelli che vedete nella foto, un quartetto con sassofono, due banjo e batteria, quindi hanno un suono molto secco, non c'è il pianoforte, hanno un suono molto aspro, tipico del ragtime, e è una musica molto eccitante, loro suonarono anche in Europa, ma ve li faccio ascoltare non solo perché erano di stanza anche a Londra, ma perché qui si coglie molto bene il ruolo pirotecnico, spettacolare e, lasciatemi dire, caciarone e anche divertente della batteria. Scusa, ciao, si vede che ho messo il telecomando, beh, questo è il vantaggio della tecnologia, ho messo il telecomando, chiedo scusa. Ho messo il telecomando in tasca e quindi, ok, lo riascoltiamo da capo, scusate. Thank you. naturalmente una musica un po' ripetitiva, perché poi all'epoca veniva danzata, cioè avete capito che c'era uno spettacolo dietro. Certo, oggi non è la giornata di celebrazione dell'Hi-Fi, per quello che poi riusciamo a sentire, però facciamo un viaggio nel tempo e quindi facciamo anche un piccolo sforzo per cercare di capire. La batteria esercitò un'enorme attrattiva sugli artisti dell'avanguardia dell'epoca, perché per esempio per personaggi come i futuristi era la che pensavano alla vita come all'arte, anche come un'arte capace per esempio di esaltare e celebrare il nuovo rumore delle metropoli, la batteria era veramente lo strumento che faceva musica con del rumore. Utilizzava sonorità che considerate non musicali in maniera ritmica e al tempo stesso aveva anche qualcosa di macchinistico, quindi personaggi come i futuristi trovarono molto, o anche perfino i surrealisti per altri versi, trovarono molto attraenti, forse più che surrealisti, i dadaisti, trovarono molto, molto attraente la batteria, perché introduceva un elemento di, da un lato, di modernismo macchinista, rumoristico, urbano, diciamo così, metropolitano, dall'altro introduceva elementi, come avete sentito, anche di eccentricità, cosa che poteva affascinare molto i dadaisti, di qualcosa che era, come dire, aveva un effetto centrifugo rispetto alla classica melodia e alle classiche forme di ballo della musica. Tant'è vero che alcuni grandi artisti, come per esempio Man Ray, si fanno ritrarre, c'è questo autoritratto di Man Ray come batterista, no? Cioè con le bacchette, con questo gioco d'ombra, che è veramente molto, molto affascinante e dà l'idea appunto di quanto la batteria fosse considerato l'elemento di novità più clamoroso di questa musica che arrivava dall'America. Ancora su Londra vorrei attirare la vostra attenzione sull'ambiente in cui questa musica veniva suonata. Per esempio, a Londra c'era un locale gestito da un italiano, il cui nome vedete sulla didascalia, Ciro, la Ciro's Coon Club Orchestra era un'orchestra di neri. Coon era un'espressione dispregiativa, oggi la consideriamo dispregiativa, all'epoca lo era fino a un certo punto, vuol dire procione, ed era associata al nero americano. E l'orchestra era un gruppo in realtà diretto dal batterista Hugh Pollard, vedete la foto lì in basso. Lo schizzo che vedete sulla sinistra vi dà un'idea di come erano i locali nei quali si suonava questo genere di musica. Spesso erano locali piuttosto raffinati, potevano essere di due tipi, o diciamo dei teatri, quindi dove si suonava del varietà, il music hall, quindi una successione di numeri che comprendevano, che so, quello che racconta le barzellette, i ballerini, il mangiatore di fuoco, il prestigiatore e poi naturalmente il cantante e ovviamente le novità che arrivavano dagli Stati Uniti. Oppure locali come quelli di livello alto borghese o aristocratico, piuttosto costosi, dove si andava a cenare vestiti di tutto punto e si poteva anche danzare ascoltare la musica del gruppo. Perché vi faccio sentire questo St. Louis Blues del 17 di Hugh Pollard? Intanto perché Pollard è stato un batterista importante, perché appunto ha portato tanta musica nera a Londra, ma perché sembra che questo sia probabilmente uno dei primissimi, se non forse il primo disco la prima incisione di St. Louis Blues, quella che poi sarà il blues più famoso. Era stato composto pochi anni prima da William Christopher Handy e una delle primissime registrazioni appunto è in Europa. Questo per dirvi che a Londra era possibile ascoltare il blues. Thank you. notate alcune cose. La prima è che questa musica non ha strumenti a fiato, cioè principalmente sono banjo, batteria, pianoforti, non si sente il contrabbasso, ovviamente le percussioni, quindi c'è un suono secco, aspro, che non ha niente a che fare col jazz che si stava sviluppando a New Orleans proprio in quegli stessi anni. Il 1917 Armstrong a 16 anni è ancora a New Orleans, ma molti gruppi di New Orleans già si stanno diffondendo negli Stati Uniti. In realtà a Londra di tutti questi sviluppi, ma gli stessi musicisti neri non erano minimamente al corrente. Questo è il ragtime mescolato a blues, di un blues peraltro pubblicato a stampa. Si prendeva lo spartito, si arrangiava il pezzo e veniva fuori quello che avete ascoltato. Quindi la sonorità è quella dei gruppi ragtime. La seconda cosa interessante, vi prego di notare l'anno, 1917, siamo in piena guerra. Questo non impedisce alle persone di andare a ballare, di andare a divertirsi, di svagarsi, mentre al fronte avvengono massacri di proporzioni immani, e il centenario della Prima Guerra Mondiale è stato molto importante, secondo me, per ricordarci da quale tributo di sangue veniamo. Ancora oggi, basti pensare a quello che succede nel Vicino Oriente, che è una conseguenza ancora della Prima Guerra Mondiale. E quindi vi dà un'idea che, nonostante le grandi difficoltà, i musicisti viaggiavano sui piroscafi tra Stati Uniti e in particolare Inghilterra, e il pubblico comunque aveva voglia di divertirsi. Tuttavia, una idea di cosa fosse questa nuova musica, la cui parola cominciava a diffondersi, jazz, che non era solo questo ragtime, si ebbe a Londra nel 1919, quando accadde qualcosa di epocale. Cioè, a guerra finita, arriva una grande orchestra diretta da Will Marion Cook, che era un compositore che negli Stati Uniti è considerato nero. Abbiamo già fatto una lezione su bianco e nero, spero definitiva, per la regola One Drop, quest'uomo con la pelle chiara era comunque considerato nero, e era stato un importante violinista, aveva già studiato in Europa, aveva studiato con un allievo di Brahms, ma poi, siccome negli Stati Uniti un nero non poteva fare carriera di violinista classico, tanto meno di direttore d'orchestra, si dedicò alla composizione e ha scritto alcuni importantissimi musical tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Alcuni di questi musical furono anche rappresentati a Londra. Fatto sta che a un certo punto nel 19 Cook mette su una mega orchestra di musicisti prevalentemente newyorkesi e non solo, che suona un repertorio che va dai classici leggeri a arrangiamenti di spiritual, a ragtime, a pezzi da ballo. E con questa mega orchestra attraversa l'oceano e sbarca a Londra, dove sta diversi mesi e fa diversi concerti. Questa mega orchestra si chiama Southern Syncopated Orchestra. Il fatto che ci sia l'aggettivo Southern, cioè l'orchestra sincopata del sud, serve semplicemente a dare un tocco di esotismo. È come se io dicessi la pizzica travolgente. Magari i musicisti sono tutti della Brianza, però con la parola pizzica uno pensa subito al sud, a un certo tipo di colore, eccetera. Ecco, Southern aveva esattamente lo stesso significato. Era un'orchestra tutta di neri che suonò a Londra per diverse settimane ed ebbe un enorme successo. Ma a Londra, tra l'altro, nell'orchestra ci suonava un ragazzino veramente southern, veramente del sud, di New Orleans. E questo ragazzino era Sidney Bechet. Aveva 21 anni, nel 1919, E era praticamente, credo, l'unico dentro l'orchestra che non sapesse leggere la musica, perché in realtà l'orchestra, come vi dicevo, era una specie di orchestra classica, tra i migliori professionisti che ci fossero negli Stati Uniti, che erano stati radunati da Cook. Bechet, di cui abbiamo già parlato in una scorsa lezione, nella prima se non ricordo male, che era una specie di scavezzacollo, comunque si unì all'orchestra e faceva un numero che era un vero blues. Lui veniva da New Orleans, non suonava del ragtime. Lui faceva quella musica che nessuno in Europa aveva ancora mai ascoltato e pochissimi negli Stati Uniti conoscevano. Che cosa suonava? Sappiamo che si alzava, imboccava il clarinetto e cominciava a suonare questa cosa che era, sì, un blues come St. Louis Blues, ma aveva, chiedo scusa, aveva un pathos, un'intensità, ma anche un modo di intonare le note completamente diverso. Tant'è che una sera andò a sentire l'orchestra un importantissimo direttore d'orchestra classico, Ernest Ansermé. Per farvi capire chi era Ansermé, Ansermé era uno che dirigeva le prime di Debussy, di Stravinsky, di Ravel, di Honegger, di Millau. Era il punto di riferimento della nuova musica d'avanguardia europea. Ansermé va a sentire la Sauten Syncopated d'orchestra, ne rimane talmente folgorato che pubblica per la Revue Romande nel 1919 un lungo articolo. Chiedo scusa. Pubblica un lungo articolo nel quale descrive per filo e per segno cosa ha ascoltato. E poi a un certo punto scrive, questo articolo è importantissimo perché sappiate che praticamente è la prima recensione di un concerto di jazz che ci sia nella storia, fatta da un direttore classico. E poi scrive a un certo punto: viene la Sauten Syncopated Orchestra uno straordinario virtuoso di clarinetto che sembra il primo della sua razza ad aver composto sul clarinetto dei blues in forma compiuta. Ne ho ascoltati due che egli aveva lungamente elaborato, poi suonato ai suoi compagni perché ne potessero fare l'accompagnamento, quindi non c'è la parte scritta, dato che non leggeva. Molto differenti erano l'uno e l'altro, altrettanto ammirevoli per la ricchezza di invenzione, la forza d'accento, l'arditezza della novità e l'imprevisto. Essi davano già l'idea di uno stile e la forma ne era travolgente, a sbalzi, violenta, con una fine brusca e spietata come quella del secondo concerto brandenburghese di Bach. Per dare un'idea, voglio dire il nome di questo artista di genio perché da parte mia non lo dimenticherò, è Sidney Bechet. Quando si è cercato così spesso di ritrovare nel passato una di quelle figure alle quali si deve l'avvento della nostra arte, quegli uomini del XVII e XVIII secolo, per esempio, che con delle aree di danza facevano delle opere espressive ed aprivano così il cammino di cui Haydn e Mozart non segnano la partenza, ma il primo termine, che cosa commovente è l'incontro di questo grande ragazzo tutto nero con denti bianchi e quella fronte stretta, il quale è ben contento che si ami ciò che egli produce, ma non sa dire nulla della sua arte se non che egli segue la sua own way, la propria via. E ciò è straordinario se si pensa che questa own way, attenzione, è forse la grande via nella quale il mondo si incamminerà domani. Nel 1919 il direttore d'orchestra, Ernest Ansermé, mi vengono i brividi a rileggere queste righe, sente in Sidney Bechet la strada che prenderà la musica del futuro. Dimenticavo di farvi vedere, preso dalla lettura, una piccola foto fatta negli anni 30, un po' più tardi, di Ernest Ansermé. Quindi l'arrivo di Bechet in Europa con la Sauten Syncopated Orchestra rappresenta una specie di improvvisa novità nel panorama musicale europeo e ad accorgersene è soprattutto un musicista di area classica. Questo tanto per dire che le famose barriere fra musica classica e jazz non solo non ci sono mai state, ma fin dal primo momento non sono mai state erette, perché appunto Bechet è stato praticamente scoperto da Ernest Ansermé. Ora ci spostiamo a Parigi e la guerra entra in un certo senso in maniera brutale nella nostra storia. L'uomo che vedete raffigurato si chiama, con un cognome destinato, come dire, sembra il suo destino, James Rees Europe. James Rees Europe è uno dei più importanti musicisti della musica nera dei primi vent'anni del Novecento, perché Europe era anzitutto un direttore d'orchestra e un compositore che nei primi anni 10 ad Harlem aveva fondato, era uno dei fondatori del cosiddetto Clef Club, che era un incrocio fra un'agenzia di ingaggio, un sindacato, forse anche una loggia massonica, in cui i migliori musicisti neri di New York potevano ritrovarsi, lavorare, suonare insieme. Europe fondò una grande orchestra che si chiamava la Clef Club Orchestra, aprì delle scuole di musica e lavorò in quegli anni per elevare il livello musicale dei giovani neri di Harlem, lavorando principalmente ad Harlem. Al tempo stesso, la musica di Europe, che era una specie di ragtime per grande banda, diciamo così, vedete tanti banjo, non vedete gli strumenti a fiato, se non pochissimi, chitarre, banjo, principalmente quindi strumenti a plettro, al tempo stesso, e ovviamente percussioni, qualche violoncello per fare i bassi, Dunque la Clef Club Orchestra, dicevo, al tempo stesso divenne l'orchestra più importante di New York. Era quella che tutti, per esempio, gli aristocratici chiedevano per le loro feste, perché suonavano questo ragtime eccitante e travolgente che stava cambiando la faccia, diciamo, dell'intrattenimento newyorkese. Questo intorno alla metà degli anni 10, 1913, 14, 15. Proprio in virtù di questa fama e di questa energia, il Ministero della Difesa chiamò a un certo punto Europe e gli disse: ma perché non andate in Europa a sollevare e alleviare il morale delle truppe americane? Che, sapete, poi nel 17 gli Stati Uniti entrano in guerra, e quindi Europe, che vedete lì nella sinistra con un pastrano militare, cappello militare, prende la sua orchestra e convince i musicisti ad andare in Europa a suonare non solo per le truppe, ma anche per i civili, diciamo così. Si fanno chiamare, saranno il 369esimo reggimento di fanteria, e detto anche gli Harlem Hellfighters, i combattenti infernali di Harlem. Voi ci sorridete, però questi signori in alcune occasioni hanno dovuto posare il sassofono o il banjo, imbracciare il fucile e andare a combattere nelle trincee. Ci sono delle lettere terrificanti che mandano a casa dicendo: ma io vengo qui a suonare e mi ritrovo a sparare, no? E magari poi posavano il fucile e la sera andavano a suonare per allietare le truppe, anche per sollevare, diciamo, il loro stesso morale. L'orchestra di Europe è praticamente la più bella, importante, valida orchestra nera degli anni 10 americana, e si ritrova in Francia nel 1917-18. Abbiamo anche altre fotografie, guardate, questa è straordinaria, questa orchestra che suona per le strade di Parigi, e ve la vorrei far sentire in una registrazione che fu fatta appena loro tornarono a casa. Qualche mese dopo, di nuovo è un blues di William Christopher Handy. Rispetto a quello della Ciro Schoon Orchestra, però, questo pezzo ha una caratteristica che, se ci fate attenzione, ve lo indicherò verso la fine: ci sono dei solisti, clarinetto, trombone, cornetta, che provano a improvvisare. Quindi portano non solo quel senso di ragtime e di banda, ma stanno anche portando quella nuova concezione improvvisativa che si stava diffondendo nel jazz. Ma non lo fanno a New York. Lo fanno per le strade di Parigi. Thank you. nel disco di Europe si sentono dei ritmi che gli europei non erano abituati ad ascoltare, per esempio quando i clarinetti fanno tarati, tarati, tarati, tarati, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questi sono ritmi africani che sono qui e lì percepibili nei pezzi ragtime che abbiamo ascoltato prima, ma non ne furono mai suonati con questa chiarezza. E quindi portarono in Europa dei ritmi che gli stessi compositori classici cominciarono a guardare con grande interesse, perché erano idee musicali comuni negli Stati Uniti, ma mai sentite prima in Europa. La band di Europe suonò nelle campagne, negli ospedali, per i civili, in mezzo alle case bombardate, vicino al fronte, alle trincee, nella città di Parigi, negli ospedali di campo, come in questa bellissima fotografia, dove Europe è di spalle, e suonavano ragtime. Stavano portando un gusto di musica nera in mezzo alle persone provate dalla guerra. Attenzione, facciamoci un breve ragionamento. La guerra diventa una specie di canale attraverso il quale la musica nera americana arriva in Francia, che come ovviamente che più dell'Inghilterra è colpita, come sapete, dalla concretezza brutale della guerra. E attraverso questo canale arriva non solo una musica nuova, ma arriva una musica che dà sollievo, perché porta questa energia ritmica, questa libertà sincopata, questo modo di concepire anche la libertà corporea e anche queste intonazioni più eccentriche, avete sentito il clarinetto, il trombone col glissando, che nella musica europea non c'erano. Ora, se andate su YouTube trovate dei filmati, c'è un rarissimo filmato di James Europe, si vede la banda che marcia in mezzo alle macerie, in mezzo a un sentiero, poi si vedono i musicisti addirittura giocare danzando il tip-tap, li vedrete nel 1917-18 danzano già il tip-tap a Parigi. Di solito questi filmati sono accompagnati da una musica posticcia messa sopra, io ve li faccio vedere senza musica perché sono più suggestivi. Qui ci sono i militari che sfilano in questo paesino della Francia e dietro c'è la band di Europe che dobbiamo immaginare sta suonando un ragtime o una marcia con degli elementi ragtime. Europe è il primo. Questo è il primo filmato che noi conosciamo di musicisti neri americani, credo che sia il primo, neri americani in Europa. Eccolo lì, Europe. Ovviamente i francesi salutano con entusiasmo i soldati ed ecco la band di Europe con, vedete, i rullanti. Europe che dirige, chissà, forse The Memphis Blues, c'è addirittura un primo piano. Questa è anche, come dire, l'indicazione, ecco i due rullanti, l'indicazione del cinema che sta portando anche un documento importante. Guardate le oche, siamo in un villaggio, siamo in un'aia. Europe che dirige, ci sono le oche che gli girano intorno. È un documento eccezionale. E qui per le strade del villaggio, vedete, gli altri battono le mani, semplicemente il tempo, e questi due musicisti dell'orchestra di Europe danzano il tip-tap, che è una danza già molto diffusa fra i neri, e lo danzano correttamente, come vedete, sono bravi. Un documento eccezionale. Prima di passare a Louis Mitchell vorrei ricordarvi della triste fine di James Europe, che tornò gloriosamente negli Stati Uniti. Nella parata che si fece sulla Quinta Strada, l'orchestra di Europe ebbe, la parata dei reduci, ebbe un'accoglienza pazzesca, trionfale, ma purtroppo poche settimane dopo Europe fu ucciso da un membro dell'orchestra in un accesso d'ira con una coltellata in gola. Va detto a eterna ignominia dei batteristi, fu il batterista dell'orchestra che lo uccise prematuramente, quindi Europe è scomparso proprio nel pieno della sua carriera. Sempre parlando di batteristi, invece, come dire, diamo di nuovo lustro alla categoria, parlando di Louis Mitchell. Louis Mitchell è un personaggio che non compare nelle storie del jazz, molto affascinante, perché in realtà è un batterista, uno di quelli che ha avuto la fortuna di crescere nell'epoca in cui i batteristi erano i leader spesso dei gruppi, perché suonavano lo strumento più spettacolare. E Mitchell in realtà non lo conosciamo nelle storie del jazz perché ha fatto gran parte della sua carriera in Europa. È un nero americano che è in Europa già dal 1914 ed è soprattutto presente a Parigi. È lui che porta il gusto della batteria a Parigi. E probabilmente è lui che Man Ray ha ascoltato quando poi si fa l'autoritratto con le bacchette. Louis Mitchell è il re del jazz a Parigi. Suona in realtà a Bruxelles, suona in Germania, suona in Inghilterra, viene in Europa continuamente, ma è a Parigi che diventa il musicista più importante, fonda un gruppo che si chiama i Jazz Kings, che è un buon gruppo musicale, e porta Mitchell una sensibilità musicale già più vicina al jazz di New Orleans, con delle parti improvvisate, meno rigidità ragtime, e però quell'elemento così spettacolare, tipico dell'epoca. Questa è una registrazione che vi faccio sentire, fatta nel 1922, dei Jazz Kings di Louis Mitchell. Dovete immaginarvi che a sentire Mitchell nei vari locali di Parigi ci andavano tutti. Ci andava Cocteau, ci andava Man Ray, ci andavano i surrealisti, i futuristi che magari dall'Italia andavano in Francia ad ascoltarli. Poi vedremo meglio alcuni aspetti dell'arte. Mitchell rappresentò la vera novità del jazz a Parigi dopo il passaggio di James Europe. E prima di sentire cosa ne pensava Jean Cocteau, ascoltiamoci la musica che Cocteau dovette probabilmente ascoltare in un locale di Parigi, ascoltando un pezzo di questo genere. Tromboni che fanno il glissando, il clarinetto stridente, la tromba che distorce i suoni, tutto questo era un'estetica musicale completamente nuova che colpì moltissimo non solo il pubblico ma anche gli intellettuali. Per esempio, assistendo a uno spettacolo del ballerino Henry Pilser nel 1918, insieme a Murray, al fratello Murray Pilser, scrive Jean Cocteau nel libro Le Coq et l'Arlequin: l'orchestra americana suonava con dei banjos e delle grosse pipe di nickel, sarebbe il sassofono. A destra della piccola troupe in abito nero c'è un barman de fruit. sotto una pergola dorata che agita sonagli, bacchette, assi e trombe d'automobile. Vi ricordate, nel Versatile Four si sentono fischietti, urla, eccetera. Ne fabbrica dei cocktail, disumori, mettendoci a volte un gesto di piatto, alzandosi, dondolandosi, sorridendo agli angeli. Il signor Pilser, cioè il ballerino in frac, magro e dipinto di rosso, e la signora Gabby Deslys, altra ballerina, grande bambola da ventriloquo, il viso di porcellana e i capelli color gran turco, vestita di piume di struzzo, danzano su questo uragano di ritmi e tamburi, una sorta di catastrofe addomesticata che lascia tutti ubriachi e miopi sotto una doccia di 6 proiettori contraerei. Le luci. Questo per darvi un'idea di come veniva percepita la novità, quasi catastrofe addomesticata, dice Cocteau, della musica, di questa nuova musica nera. Un uragano di suoni, ma non solo perché l'uragano è dovuto al fatto che questa registrazione è del 22, ma perché segue regole estetiche che i musicisti, gli ascoltatori dell'epoca non sono in grado di seguire, ma intuiscono che c'è una novità interessante. Grazie a Louis Mitchell e altri musicisti, Parigi diventa la vera capitale del primo jazz in Europa nei primi anni 20, subito dopo la guerra. Naturalmente Parigi esce stremata dai bombardamenti, dalla Prima Guerra Mondiale, e Europe, abbiamo visto, dà una mano fondamentale a far conoscere la nuova musica nera, ed è chiaro che il jazz porta un senso di vitalità, questo è molto importante per capire perché il jazz attecchisce in Europa, porta un senso di vita. Dopo che c'è stata la morte, dopo che milioni di persone sono morte al fronte e altrettante tornano deformate, deturpate, con tutti i sintomi dello stress da guerra. E questa quindi è una specie di rivincita della vita, in un certo senso. Parigi, dicevo, diventa la capitale del jazz e diventa anche la capitale dei musicisti neri, perché Parigi è piena di musicisti neri importanti. Questa foto fu fatta davanti ad una casa e fu fatta apposta per radunare tutti i più importanti musicisti neri della città. Se riuscite a identificarlo, il quarto da destra è Sidney Bechet, che era a Parigi. Il quarto da destra, quello col clarinetto in mano. È una bellissima foto, impressionante, di tutti questi musicisti neri americani che orgogliosamente si ritrovano insieme per questa foto. Ora, l'idea dell'uragano di suoni non è in realtà una novità nella cultura francese di quegli anni, perché l'accogliere questa nuova musica nera, apparentemente così selvaggia, rientrava in un clima culturale che in Francia era già fervido, già ricco di questo tipo di spunti, perché già dalla metà degli anni 10 va affermandosi il cosiddetto primitivismo, cioè l'idea che io mi ispiro ad un'arte cosiddetta primitiva, per esempio l'arte africana, per poter rinnovare nel profondo le forme dell'arte occidentale. Uscita dal decadentismo, l'arte occidentale ha bisogno di altri stimoli. E dove li va a cercare? Li va a cercare, per esempio, nelle maschere africane. E magari attraverso le maschere africane Picasso ha l'idea delle damoiselle d'Avignon, cioè di queste prostitute che fanno il bagno e che sono, come sapete, l'atto fondante del cubismo. E nei volti e nella struttura dei corpi ci sono, appunto, le maschere africane. Questa idea che il primitivo, come l'africano visto ovviamente erroneamente, ma in quel momento come primitivo, che però porta una linfa che rinnova l'arte. In fondo il jazz si inserisce in questa stessa temperie culturale, vista come musica dei negri, come si diceva all'epoca, esaltati, primitivi, trascinanti, sessualmente esuberanti, che danno una scossa ad una civiltà che si è autoaffondata nella tragedia della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso Man Ray, per esempio, intitola Jazz, questa composizione astratta, dove forse si intravede una campana di una tromba o di un sassofono, ma con l'idea appunto magari di astrazione, non più primitivista, legata quindi a un'idea comunque di contrasti, di ritmi, di spigoli e di curve di tipo innovativo. artisti e musicisti dovettero cominciare a prendere atto che questa nuova corrente musicale poteva portare la musica e l'arte in una nuova direzione. E quindi molti compositori classici stessi cominciarono ad accogliere, anzitutto in Francia, elementi del jazz. Quello che il più brillante di tutti fu sicuramente Darius Milhaud, che nel 1923 mise in scena un balletto che si chiamava La création du monde, la creazione del mondo. Questa creazione del mondo in realtà nasce da uno stimolo primitivista, perché l'idea nasce da un mito africano secondo cui l'origine del mondo è appunto africana, un mito che poi abbiamo visto, almeno per quanto riguarda l'umanità, in realtà è reale. Lo scrittore Blaise Cendrars raccoglie nel 1921 una serie di leggende africane, da cui poi prende spunto il balletto di Milhaud, e il coreografo che poi lavorerà alla Création du Monde, Jean Borlain, è già un coreografo che si ispira alle sculture africane, ecco come Picasso si ispira alle maschere africane, si ispira alle culture africane per elaborare delle coreografie. E oltre alle coreografie di Borlain, entra in azione un grande artista d'avanguardia che trova in questo primitivismo materia di ispirazione, ed è Fernand Léger che elabora scene e costumi per la Création du Monde. Questa è una ricostruzione appunto delle scene e costumi di Léger per la Création du Monde. Io adesso vi faccio vedere, l'ho trovato su YouTube qualche giorno fa, un frammento di una ricostruzione della, non tanto della coreografia, ma proprio anche delle scene e costumi della Création du Monde del 1923. Dura un minuto. Tanto per farvi vedere un frammento. Ora, la mia idea era di farvi ascoltare... Prego. No, La Sagra della Primavera viene prima. La Sagra della Primavera è del 1913, mi scusi. E, certamente il primitivismo stravinskiano ha un ruolo molto importante in tutto questo. Peraltro Stravinsky si è ispirato invece al ragtime e al jazz per scrivere L'Histoire du Soldat, che contiene delle pagine delle danze come tango, charleston, eccetera, la cui prima esecuzione fu diretta da Ernest Ansermé, tanto per tornare a bomba. La Création du Monde è senza dubbio l'opera di musica classica più riuscita per quanto riguarda la fusione fra il jazz di quegli anni e la musica classica. È un po' tardi, io avevo preparato un frammento un po' più lungo, ve ne faccio sentire un pezzettino e poi salto bruscamente alla slide successiva perché non c'è la dissolvenza che avevo pensato inizialmente. Vi faccio sentire l'inizio della parte finale, perché c'è un assolo di clarinetto che si sente che è ispirato al jazz. Milhaud era stato prima in Brasile e dalla musica brasiliana aveva tratto ispirazione per un altro balletto importantissimo, Le Bœuf sur le Toit, che è il nome di un locale molto famoso di Parigi all'epoca, e poi era stato negli Stati Uniti dove probabilmente aveva ascoltato del jazz, quindi aveva ascoltato del jazz sia negli Stati Uniti sia a Parigi, e può quindi per esempio scrivere pagine come questo frammento. Quindi vi chiedo scusa se saltiamo in modo un po' brusco alla didascalia successiva. C'è c'è la batteria. A Parigi si stavano anche diffondendo le danze nere. Vi ricordate i musicisti di Europe che ballano il tip-tap? Ma sta arrivando anche una nuova danza che dal 23 spopola negli Stati Uniti, il Charleston. E il locale dove si balla il Charleston è un locale aperto da una musicista, cantante, ma soprattutto impresaria statunitense, Ada Smith, detta Bricktop, che tra l'altro ebbe un locale anche qui a Roma, aprì locali praticamente in mezza Europa, ma in particolare le Grand Duke fu uno dei locali più alla moda di Parigi tra il 1924 e 25-26, dove si poteva ascoltare e ballare il Charleston. Ma la vera tempesta che investe l'Europa, e in particolare Parigi, ma non solo, che arriva dagli Stati Uniti, una tempesta destinata a cambiare i nostri costumi, è l'arrivo di Josephine Baker. La Venere nera. Josephine Baker chi era? Era una ballerina di fila, quella che sta alla fine, in genere era proprio la ballerina che danzava negli spettacoli, era l'ultima della fila, perché l'ultima ballerina della fila doveva essere non solo brava a ballare, ma negli spettacoli nero-americani aveva anche dei ruoli comici. Quindi era quella che faceva finta di non ballare, oppure faceva gli occhi storti. Insomma, doveva avere anche una capacità di commediante, di intrattenimento comico. Era naturalmente bella, seducente, bravissima a danzare, buffissima, e fu ingaggiata per uno spettacolo che si chiamava La Revue Nègre, che arrivò di lì a poco, nel 1925, a Parigi. Tra l'altro, nell'orchestra c'era Sidney Bechet, che faceva su e giù, come avete capito, tra Europa e Stati Uniti. L'arrivo di Josephine Baker al Music Hall degli Champs-Élysées e poi al Casino de Paris rappresenta una delle grandi rivoluzioni del costume europeo. Perché? Perché Josephine Baker danzava non sempre, ma spesso nuda, comunque diciamo topless. Aveva portava questo incredibile gonnellino, come vedremo tra poco, di finte bucce di banana, quindi era praticamente seminuda, e danzava in modo travolgente il Charleston, cioè rappresentò una specie di rivoluzione nella figura femminile che era al tempo stesso sensuale, completamente padrona di se stessa e quindi paradossalmente emancipata pur nel suo esibirsi, nella sua piena corporeità, ma non, come dire, in modo umiliante, ma al contrario di liberazione corporea, una totale, piena consapevolezza di liberazione sessuale nei movimenti corporei e anche, in buona dose, una notevole capacità comica che non guasta di commedia. Noi abbiamo qualche filmato muto degli spettacoli di Josephine Baker, che tra l'altro, guardate la firma Paul Collen, è la firma di questa caricatura dello spettacolo degli Champs-Élysées, della Revue Nègre. Torneremo su Paul Collen tra poco. Io ho tolto l'audio a questi filmati perché è più suggestivo vederlo senza della musica posticcia aggiunta. Questa è una tipica scena della Revue Nègre. Siamo in Africa, in un'Africa inventata, arriva l'esploratore che si riposa, tutti schiavi neri, ed ecco lei. Possiamo abbassare le luci, grazie. Grazie. Il filmato è un po' accelerato, quindi si perde un po' della... Ecco il famoso gonnellino, e poi i movimenti pelvici, più chiari di così, un po' accelerati, ma... Chiaramente la gente faceva la fila per andare a vedere questo spettacolo. Non si era mai visto niente di simile. Ecco il Charleston. Questo è un filmato del 31, ancora muto. Qui la vediamo in uno spettacolo di tipo diverso, però possiamo apprezzare i costumi, per esempio, più che la danza, anche in parte la coreografia. Eccola. C'è della musica, le ballerine dietro portano il tempo, anche una musica molto rapida. Vedete, lei fa queste parti più comiche. Ed ecco che lei danza qui, appunto, in topless. Le piume. Naturalmente tutto questo era accompagnato dalla musica, da una musica jazzistica, sincopata. Come vedete, le coreografie non sono cambiate poi nei tempi della Carrà. L'ultimo frammento che voglio farvi vedere è, vi dà l'idea dell'aspetto rivoluzionario della danza per gli europei. I movimenti pelvici, le allusioni sessuali, una libertà di movimento, il busto che si muove, le braccia. Anche questo ho tolto la musica. Qui c'è un gruppo che suona. Ho tolto la musica perché quella che è aggiunta è posticcia, non è quella originale. E in tutto questo anche una grandissima dose di humor, come vedete. Nessuno danzava in Europa in questo modo, non si conoscevano ancora le regole dei passi. Sì, qualcuno danzava il Charleston nei locali di Bricktop, di Ada Smith, ma con questa elasticità, non si era mai visto niente di simile. Mentre lo vediamo, lo commentiamo, le danze europee, cioè gli europei cominciavano a sciogliere il proprio corpo, vedete il sedere in evidenza, è un tratto africano, quindi come dire sessualmente esplicito, di liberazione corporea. Questo tipo di gusto era completamente sconosciuto in Europa. Questo rappresenta le gambe alzate, allargate. È completamente sconosciuto in Europa e rappresenta una vera e propria rivoluzione del gusto, di emancipazione corporea, del movimento. Ed è una estetica africana che conquista l'Europa e va ad aggiungersi a quella che già qualche anno prima si era diffusa, che era quella del tango, che aveva rivoluzionato il rapporto di coppia nella danza. Questa è una danza in cui si danza praticamente da soli, puoi danzare con un partner che hai di fronte. Oggi a noi tutto questo può sembrare ovvio, ma all'epoca fu, per chiunque andava a vedere gli spettacoli della Baker, che girarono in tutta Europa, compresa l'Italia, fu un vero e proprio shock. Uno shock culturale, uno shock estetico, uno shock morale, di costumi. Grazie, possiamo rialzare le luci. Addirittura l'arte ne dovette prendere atto, che il corpo si muove in un modo diverso. Una cosa che i bianchi non hanno mai fatto, c'è il trombettista nero in queste caricature di Sam, ovvero Georges Gourmet, 1925, White Bottoms, perché l'allusione al pezzo Black Bottom, cioè sedere nero, questi sono i sederi bianchi. Dei bianchi che provano a danzare questi stranissimi passi che arrivano dai neri americani. Questa è la rivoluzione del corpo, niente più di queste caricature ci fa capire quanto fosse bizzarro che degli alto borghesi con il frac vestiti tutti così, alla fine però sotto l'effetto del musicista nero deformano il loro corpo in nuove figure che sono geometriche, liberatorie, danzanti. È buffissimo, è molto simpatico. Anche Paul Collen ha fatto una serie di caricature, più che caricature, di disegni, come Paul Collen è quello che aveva... Sono tornati nel 29 in Europa, dove hanno fatto per esempio dei dischi a Barcellona, hanno portato il jazz in Spagna, e poi di nuovo a Parigi, e poi in Belgio. Cioè l'importanza dell'orchestra di Wooding è enorme, perché ha portato il suono del jazz nero in tutta Europa, in diversi momenti degli anni 20. Tant'è che hanno influenzato anche delle orchestre locali. Per esempio, la scena del jazz tedesco dei primi anni 20 non è particolarmente esaltante, un po' come quella italiana, non è molto, molto esaltante. Però, per esempio, c'è un'orchestra, quella di Julian Fuss, che era un'orchestra eccellente. Adesso qui non l'ascoltiamo, ma avevo preparato un brano, ma voglio andare avanti perché devo farvi vedere le cose più importanti. Vi suggerisco di cercare questo pezzo, Tanz du Charleston, è un Charleston in cui l'orchestra di Fuss suona in maniera molto, molto americana. L'influenza di questo jazz che avete sentito, come Shanghai Shuffle di Sam Wooding, naturalmente si fece sentire sull'arte. Pensate appunto agli artisti tedeschi degli anni 20 come Gross o Dix, che stavano raccontando quella opulenza volgare con la quale stava crescendo la Repubblica di Weimar e che di lì a poco porterà all'abisso della crescita del nazismo. In un pezzo come, nel trittico Metropolis, no? Ci sono i reduci della guerra, storpi, ci sono gli aristocratici e in mezzo c'è questa scena di ballo con un gruppo jazz, con il basso tuba, i sassofoni, la batteria, in questa specie di deformazione. Vedete, tra l'altro, la danzatrice di spalle sta ballando il Charleston, avvicina le ginocchia come per incrociare e hanno il busto inclinato, quindi stanno danzando il Charleston. E qui il jazz è quindi sintomo di una trasformazione della società che porta con sé qualcosa di volgare. Se ne resero conto anche i compositori classici tedeschi, per esempio Ernst Krenisch, che nel 25 scrive un'opera che si chiama Johnny spielt auf, che fu rappresentata poi nel 27 e che ha come uno dei protagonisti un sassofonista nero. Ebbe un successo pazzesco. Il problema è che Krenisch pensava al personaggio del sassofonista nero come un personaggio negativo. Invece la gente lo andava a vedere perché c'era un tocco di jazz dentro l'opera. Ma forse il compositore classico che ha meglio colto gli umori del jazz e quell'atmosfera che si vede nei quadri di Otto Dix è stato senza dubbio Kurt Weill. In particolare nei lavori realizzati con Bertolt Brecht, tra cui l'opera da tre soldi del 1928, dove dentro ci sono, vi ricordo che la formazione dell'opera da tre soldi è una formazione che è una jazz band. Cioè il gruppo che suona è fatto di tromba, trombone, sassofono, banjo, batteria. Quindi ci sono gli strumenti della jazz band, quelli che avete visto nel quadro di Otto Dix. La musica è in gran parte costituita da danze tipiche dell'epoca. Certo c'è il valzer, ma c'è anche il foxtrot, c'è il charleston, c'è il tango. E uno di questi pezzi è appunto un foxtrot, che sarebbe è praticamente una specie di sinonimo di jazz nella Berlino degli anni 20 e non solo a Berlino, ed è la brevissima, il brevissimo duetto dall'opera di Tre Soldi, Kanonensong, la canzone dei cannoni. Praticamente ci sono Mackie Messer, cioè questo crudele assassino, questo volgare capobanda che però è il protagonista dell'opera, che incontra il capo della polizia, con cui ovviamente è colluso con il potere è colluso con la malavita e viceversa, e in un certo punto, in un pezzo di un minuto, rievocano quando facevano il militare insieme e si divertivano a cannoneggiare durante la guerra e a fare, dice, di carne di carne maciullata i soldati nemici. Vi faccio vedere la Kanonensong in un film basato sull'opera da Tre Soldi del 1931. Fate attenzione alla musica, perché praticamente è un pezzo jazz, è un foxtrot. Aber die Fügungen des Schicksals sind eigenartig. Und Sie wissen schon, was ich damit meine. Und so kommt dieser Mann heute zu mir, Mackie Messer, als Freund, ja, zum Freunde. Da könnte was lernen. Mackie, kannst du dich erinnern, wie wir, du als Soldat, ich als Soldat, bei der Armee in Indien gedient haben? Tja, lieber Jackie, das waren Zeiten. Benjo. Batteria. John van Rontor, Jim van Rai. Un Josh is the Jean geworden. Doch die Armee fragt keinen Willen sein. Und marschierte hinauf nach den Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Kamm bis Hutschbeer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr bisschen den Stadtar. Ritmo Jay. Johnny war da Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber George nahm beide Wand an und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Kamm bis Hutschbeer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr bisschen Tata. John ist gestorben, Jimmy ist tot und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kamm bis Kutschbehaar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Blitzen. Tata! In un certo senso la volgarità della Germania di quegli anni che è rappresentata dal jazz, ma non è sempre così per i compositori classici. Vorrei pagare un omaggio di solo un minuto ad un grande, geniale compositore dimenticato, che nel jazz ha trovato la sua dimensione, Erwin Schulhoff. La data di morte non vi deve sorprendere, perché Schulhoff è uno di quei grandi compositori che hanno perso la vita in un campo di sterminio. Schulhoff aveva due problemi agli occhi dei nazisti: era ebreo ed era comunista. Quindi, prima di finire in un campo di sterminio, Schulhoff scoprì che il jazz gli aveva cambiato la vita, e c'è una lettera che lui scrive ad Alban Berg, di cui era molto amico, e gli dice: scusami, ma io sono preso dal demone del ballo, come se dovesse andare in discoteca tutte le sere, io devo andare a ballare questi nuovi danze americani, il foxtrot, il jazz, io impazzisco. Ha fatto da consulente per Alban Berg su delle parti jazz che si trovano per esempio nella Lulu, e Schulhoff ha scritto molte pagine, soprattutto pianistiche, influenzate dal jazz. Voglio farvi sentire questo pezzettino che dura un minuto per farvi capire quanto fosse geniale nel saver assimilato senza scimmiottare il jazz, nell'aver assimilato i ritmi del Charleston per creare una musica modernista, piena di swing e completamente originale. E il Charleston dai 5 Etudes de Jazz. Blues, bellissimo. Onore anche alla pianista Catherine Schott che suona meravigliosamente questo pezzo. Ci avviciniamo all'Italia per concludere, però planiamo sull'Italia partendo da Londra, perché io ho omesso in tutta questa storia un evento capitale. Quando nel 1919 l'Original Dixieland Jazz Band, cioè il primo gruppo che registra un disco di jazz negli Stati Uniti nel 1918 l'Original Dixieland Jazz Band arriva a Londra e porta, loro venivano da New Orleans, porta il jazz di New Orleans, porta, sebbene non sia il jazz nero rilassato con swing, ma un po' frenetico, un po' anche così caricaturale, l'Original Dixieland Jazz Band porta una concezione più sciolta della musica che avrà una grande influenza sul jazz inglese. Mentre il jazz europeo è più influenzato all'inizio dal ragtime, quello inglese è subito influenzato dall'Original Dixieland Jazz Band. Allora, per capire il jazz italiano, vi devo prima far sentire come suona l'Original Dixieland Jazz Band nel marzo del 1918 a Londra. Thank you. Questa musica travolgente mandò a gambe all'aria ovviamente i londinesi. La Original Dixon Jazz Band ebbe un successo travolgente. Tra l'altro c'erano due italoamericani, il cornettista Nick La Rocca e il batterista Tony Sbarbaro. Siamo il 16 aprile del 19, poche settimane dopo c'è una band a Milano, l'Orchestra del Trianon, diretta da Moleti, che prova a imitare la Original Dixon Jazz Band. Loro non hanno ascoltato il disco che avete ascoltato adesso, hanno ascoltato la versione americana incisa un anno prima, non fecero in tempo, siamo dal 16 aprile al 25 aprile, il disco non fece in tempo ad arrivare. Probabilmente ascoltarono la versione di un anno prima. Sentiamo cosa fa un gruppo di Milano che per la prima volta sente un disco della Original Dixon Jazz Band e prova a copiare esattamente lo stesso pezzo. Però ci provano. Ovviamente importante. Come cresce il jazz italiano? Però ci hanno provato e secondo me è importante. Come cioè, dopo un anno questi comunque già riescono a imitare la musica americana. Come cresce il jazz italiano? Cresce in vari modi. Intanto a Milano, che era la capitale del jazz italiano nella prima metà degli anni 20, Milano e Torino sono le due città più importanti, girano dei gruppi inglesi che suonano molto bene il jazz. Uno di questi, non abbiamo il tempo di ascoltarlo, è Syd Phillips, il gruppo di Riviera Five di Syd Phillips. Suonano il blues, hanno swing, suonano molto bene e girano per tutta Italia. Quindi gli italiani e i musicisti italiani hanno opportunità di ascoltare un modello musicalmente molto valido. E poi questo consente ai gruppi di crescere, ma poi soprattutto il 4 dicembre 1926 all'Eden di Milano suona Sam Wooding, quello che abbiamo sentito prima di Berlino, che stava a Berlino, e avete sentito che fior di orchestra era, col blues, lo swing, gli arrangiamenti complessi. L'arrivo di Wooding a Milano rappresenta una specie di shock che consente ai musicisti di crescere in maniera più profonda. E questo, per esempio, consente anche ai musicisti italiani di crescere. Dobbiamo invece ascoltare, senza fare ulteriori salti, un brano, almeno di jazz italiano, della metà degli anni 20, del 1926, arrangiato da musicisti americani dell'orchestra di Piero Rizza, sempre un'orchestra che fa base a Milano. Vi ricordo che Roma diventa importante alla fine degli anni 20, un po' più tardi, e il suono che sentirete non è lontano da quello di Sam Wooding, o soprattutto da quella dell'orchestra di Jack Hilton, che era un'orchestra inglese che imitava Paul Whiteman ed era eccellente dal punto di vista degli arrangiamenti. Sentite che grandi passi avanti, sono passati neanche 5-6 anni, e ci sono i grandi passi avanti, appunto. I'm going to go to the hospital. Improvvisano, Come in Francia, anche in Italia gli intellettuali rimasero abbacinati dal jazz, in particolare i futuristi e soprattutto diciamo, le tarde frange futuriste nei primi anni venti. E la follia della batteria, del jazz band, di queste danze strane come abbiamo visto in Francia, produsse esperimenti in stile appunto letterario futurista come questo jazz band di tale Diavolo Mari, non sappiamo chi si nasconde dietro questo pseudonimo, jazz band, tavolozza completa, nacchere, nocciola mandorlato, amaro, riso di metallo, scoppiante, scintillio di mitaglienti acidi, freddi, pungenti, le carni delle femmine tigrine, l'Etiopia ovviamente, che si contorcono nelle atmosfere dense di tamburi più tam tam, jazz band, datemi un pugnale per uccidere l'assassino che spezza le reni a colpi sanguinanti di violino, eccetera, eccetera. La bocca invermigliata di Titina, che barba, divora i timpani d'argento, e così via. Rossi, gialli, azzurri nella febbre lancinante del jazz band. Questo è un tipico esempio di poesia futurista o tardo futurista, siamo nel 1925, tardissimo futurista, creata ispirandosi appunto ai ritmi del jazz. E poi anche Josephine Baker ispira un certo Yes, che pubblica nel 28 sulla rivista, tutto un programma, il Klaxon, cioè il rumore urbano, diciamo così, questo black bottom futurista, un sogno, 49 parti di sabbia, 6 di borace, 10 di minio, 5 di ossido di cobalto, 5 di manganese, fu così che ottenni il nero fulgente della epidermide di Josephine Baker, che evidentemente è il sogno erotico di qualsiasi maschio europeo in quegli anni. Una vertigine di scolore mi straziava la retina con i 7 lampi diversi di un iride immaginaria. L'ottavo colore era il nero di Josephine. Questa idea del nero come bellezza, Black Beauty avrebbe detto Duke Ellington. Josephine, i negri del jazz impallidivano di stizza, e aggiunge, il pallore di un negro è spaventoso, sembra che il sangue si marmorizzi fra i tessuti. E il motivo del black bottom s'attorceva serpentinamente intorno alla dinamica nudità della danzatrice, con guizzi, sbalzi e fremiti così impetuosi e repentini che io rabbrividivo per lei d'una paura piena di ansietà. Alla fine la uccide, come vedete, estraendo la metà dal cavo serio, è sintomatico, cioè di una concezione dell'eros che poi deve uccidere il desiderio invece di viverlo pienamente, quindi tipicamente repressiva. Poi dietro il libertismo, sappiamo, futurista ci fu, insomma alla fine va a finire verso il fascismo, quindi sappiamo che fine fanno questo tipo di pulsioni. Io arrivo alla conclusione, non senza aver ricordato i nomi di Arthur Briggs e Herb Fleming, due musicisti che hanno letteralmente girato il mondo. Pensate che Fleming dall'Italia è poi andato nello Sri Lanka, a Shanghai, come abbiamo visto anche nella nostra mappa, in India. Sono musicisti che hanno fatto grande il jazz in Italia negli anni 20 e nei primi anni 30. Così come in Italia c'è stato Jack Hilton, il grande band leader inglese, la migliore orchestra europea, senza dubbio, senza alcun dubbio, che girò tutta l'Europa, nel 29 suonò a Milano e Torino e nel 30 a Milano, a Genova e qui a Roma, dove l'ascoltò anche Goffredo Petrassi, che ne trasse ispirazione per alcuni passaggi della sua prima partita per orchestra. Quindi un'orchestra in cui fondamentale, che ha influenzato anche molti musicisti di classici italiani. Vorrei ricordare, a proposito di musicisti classici, che a metà degli anni 20 un altro grande musicista classico italiano, non l'abbiamo citato ancora, Alfredo Casella, scrisse una pagina affine a quella di Ernest Ansermet, nella quale diceva che forse questo jazz che tutti deridono e che sembra una musica così eccentrica e bizzarra ha delle novità che possono portare molto lontano. Io andrei alla conclusione della nostra chiacchierata. scusate, non tanto parlando di Escobar, ma siccome è tardi, vi dico che cosa vi perdete, vi voglio far vedere un pezzo del film Resurrexio di Alessandro Blasetti, dove c'è l'orchestra di Escobar, ma chiudiamo con un pezzo da 90, chiudiamo con questo. Sidney Bechet è stato praticamente in tutta Europa, è il vero impollinatore del jazz che è ovunque. Qui c'è una lista parziale, è stato anche a Roma nel 26 con la rivista Black People con il danzatore Louis Douglas. Ma vedete, ha portato il jazz ovunque, perfino, pensate che a Mosca a un certo punto suonano contemporaneamente l'orchestra di Sam Wooding e la rivista, la Revue Negre di Jazz Kings di Frank Withers. E due musicisti di New Orleans, che non si erano mai visti a New Orleans, il trombettista Tommy Ledner e Sidney Bechet, si incontrano a Mosca. Paradossi del jazz europeo. Vorrei ricordare che è a Londra che Sidney Bechet scopre presso un rigattiere questo strano sassofono, il sax soprano. Ed è col sax soprano che si esibisce a Roma nel dicembre del 26 con i Jazz Kings al Teatro Apollo. Contemporaneamente a Milano suonava Sam Wooding, per farvi capire i brividi del jazz italiano a metà degli anni 20. In particolare Bechet si trovò a Roma e si unì poi a Roma alla compagnia di Louis Douglas, questo straordinario ballerino nero che ha portato le danze europee, le danze nere americane in Europa e anche a Roma. Douglas e Bechet lavoravano insieme nella rivista Black People, addirittura arrivarono, come vi dicevo, fino a Mosca. E io vorrei, tra l'altro lui appunto alla fine del 26 era alla Sala Umberto con la rivista Black People, al Teatro Apollo suonava Bechet, alla Sala Umberto c'era Louis Douglas, un po' come oggi a Roma, insomma, più concerti contemporaneamente in vari posti. Io chiuderei la nostra conferenza con un documento eccezionale, perché qui ci stiamo tutti chiedendo, sì, ma com'era la musica che si ascoltava alla Sala Umberto? Come danzava Louis Douglas? Come suonava Bechet in quegli anni che non ha inciso uno straccio di disco, perché nessuno lo ha registrato in Europa, negli anni tra il 19 e i primi anni 30 in cui è stato in Europa? Abbiamo un documento eccezionale con cui concludiamo la nostra conversazione. Un film del 1930 girato in Germania, in un fittizio club, in cui potrete vedere Louis Douglas che balla e dietro di lui, lo riconoscerete subito alle sue spalle a destra, con il sax soprano Sidney Bechet. Quello che stiamo per vedere adesso è quello che i nostri nonni hanno visto qui a Roma, a Berlino, i nostri bisnonni o nonni hanno visto a Roma, a Berlino, a Parigi, a Londra, a San Pietroburgo, a Mosca, a Kiev anche, ed è questo. Possiamo abbassare le luci? Grazie. Thank you. straordinario. Vorrei dirvi solo questo per concludere, che questo è quello che riassume, come dire, tutto quello che abbiamo detto, questa nuova estetica del corpo, della musica, del ritmo, dell'arte. Quindi, anche se non vi piace il jazz, e magari siete qui per fare contento qualcun altro, ma anche se non vi piace il jazz, ricordatevi una cosa di quello che avete visto. Noi siamo nel gusto, nella concezione corporea, musicale ed estetica, siamo figli di quella stagione. Grazie. Gracias.